e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? L'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. La crisi, la deflazione, la recessione, oggi è la giornata di Mario Draghi, eppure cresce il risparmio. Oggi torniamo a parlare di risparmio degli italiani, un tema che fa molto indispettire, perché la crisi non molla la presa, ci sono migliaia di disoccupati, l'economia è in affanno e in molti obiettano, e so che già oggi lo farete, ma di quale risparmio state parlando? Di quello che ancora le famiglie riescono ad accantonare a costo di non consumare. Ci sono alcuni dati che parlano chiaro, potete contestarli quanto volete, ma sono lì freddi ed inopinati. Oggi parliamo dell'industria dei fondi comuni di investimento, che vive davvero una stagione d'oro. Pensate che questi strumenti di risparmio da gennaio a giugno di quest'anno hanno raccolto quasi 60 miliardi di euro, in pratica la cifra che avevano incassato in tutto il 2013, quando è stata registrata una raccolta complessiva di 65 miliardi. Allora, raccontateci se vi attrae l'idea di accantonare un po' del vostro risparmio nello strumento fondo di investimento, se ne avete parlato con il vostro consulente, il vostro promotore. Qual è la vostra idea? 800 24 00 24. Deborah, i risparmi corrono e c'è chi invece vorrebbe correre, ma purtroppo non ce la fa. Non mi starai mica parlando di quel povero Balzaretti? Sì. Che gli è successo, tra l'altro? Ha un dolore molto invalidante che ha un nome che forse tu non hai ancora sentito. Si chiama sinfisi pubica. No, avevo ancora avuto il piacere. Vero. È un disturbo però che si fa sentire perché è molto doloroso. Se vogliamo, rientra nel grande capitolo delle pubalgie. Il dolore parte dall'osso del pube e arriva alla parte interna della coscia. Può essere improvviso e tanto doloroso da impedire l'attività sportiva, ma anche il semplice camminare, oppure essere un po' meno intenso, però durare a lungo. Persistente, insomma. In ogni caso l'attività acuisce i sintomi e il riposo li attenua. Le cause possono essere diverse: patologie tendine, muscolari, ossee, articolari, fino a quelle di tipo infettivo. Allora abbiamo preso spunto dal caso Balzaretti per parlare di questo nella seconda parte della trasmissione con un grande esperto, il dottor Melegatti, con cui affronteremo anche tutti i disturbi che possono interessare i muscoli e le articolazioni di chi pratica sport. Naturalmente a livello amatoriale non occorre essere un campione per prevenire questi disturbi, ma soprattutto anche avere indicazioni su come affrontarli nel modo migliore per tornare a correre, non come risparmi magari, ma almeno un po'. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking. Tra l'altro, Nicoletta, gli ospiti che abbiamo portato per parlare di fondi di investimento sono anche degli sportivi, lo è? Isabella Della Valle del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno Deborah, sì, diciamo che appena posso lo sono, però insomma il tempo è un po' tiranno. Esatto, e poi Marco Bernardi, direttore commerciale di Banca Generali, che salutiamo. Non so esattamente se sia uno sportivo, so che una disavventura con la caviglia quest'estate ce l'ha avuta. Piccola disavventura, buongiorno a tutti anche da parte mia, ma io grande sportivo in passato, un po' meno adesso, quindi... Allora, poi magari, però basta vederlo, ha un fisico molto atletico. Esatto, assolutamente. Per questo l'abbiamo invitato. Per questo evidentemente ottiene anche con la raccolta di fondi di investimento, questa società ottiene dei buoni risultati, perché peraltro nel periodo analizzato da Associazione è la società che ha fatto in assoluto meglio, ma ne parleremo nel corso della trasmissione. Isabella, vorrei analizzare con te nel dettaglio questo dato da cui siamo partiti, poi andremo alle motivazioni che stanno spingendo così tanto il settore, anche nell'incredulità degli ascoltatori che non sanno bene per quale motivo l'economia reale vada in un modo e la finanza vada invece in un altro. Allora, quali sono i prodotti, i settori che fanno meglio e che hanno consentito di realizzare questi 60 miliardi di raccolta nel primo semestre di quest'anno? Allora, innanzitutto voglio dire che questo dato di 60 miliardi nel semestre è un dato molto importante, perché nell'arco di 6 mesi è stato praticamente raggiunto lo stesso risultato che è stato ottenuto nell'intero 2013, lo scorso anno, quando appunto Sistema raccolse complessivamente 65 miliardi. Quindi, calcolando che abbiamo ancora un bel po' di mesi davanti, lo è facile superiamo. Pensare che questo potrà essere proprio il dato un anno, record. È un anno record, sì. In assoluto. E È una tendenza che va avanti da mesi, cioè non è il boom dell'ultimo periodo, dell'ultimo semestre, dell'ultimo trimestre. Ormai vediamo che l'industria del risparmio gestito è proprio consolidata, la strada della crescita è segnata. In particolare questo grande boom di raccolta è stato ottenuto attraverso lo strumento appunto Fondo Comune e attraverso una tipologia di prodotti particolari che sono i prodotti flessibili. Questi prodotti ormai da tantissimo tempo riescono a entrare proprio a far parte dei portafogli delle famiglie italiane, perché da un lato insomma riescono a coniugare tutta una serie di caratteristiche che, se vuoi, ti dico adesso, certo, oppure magari ne parleremo. No, ci andremo adesso con calma. Intanto abbiamo fatto un po' una fotografia sull'andamento di questi sei mesi, perché appunto erano molto interessanti gli aspetti di questa crescita, no? Un boom straordinario, esatto. Però penso che molti ascoltatori, soprattutto non addetti ai lavori, si siano un po' fermati alla domanda a cui accennava Deborah in apertura, cioè di fronte a questi dati sul risparmio viene da chiedersi: ma da dove arriva? E si sente parlare di crisi, la viviamo, di recessione, di disoccupazione, dove sono nascosti allora tutti questi soldi che poi vengono investiti? E voi che ne pensate? Cominciamo, da dove spuntano cominciamo fuori? Con l'industria, Marco Bernardi, Banca Generali, che cosa dice? Ma io quello che posso dire, che osservo da operatore sul mercato, vedo in realtà un forte trasferimento più che una produzione di nuovo reddito. È vero che la propensione al risparmio negli ultimi due anni è un po' aumentata, quindi si riesce a risparmiare un po' di più, almeno a livello medio. Perché però si consuma meno, peraltro. Si consuma meno, esatto. Si cerca, diciamo che noi veniamo, abbiamo due trend nella cultura italiana, no? Abbiamo una fortissima tradizione di risparmio, più di tutti gli altri paesi europei e mondiali, abbiamo però una scarsa competenza finanziaria, quindi non sempre magari riusciamo a risparmiare nel modo migliore per cogliere le opportunità, poi se c'è tempo magari si può anche valutare nelle scelte di investimento che facciamo quotidianamente. Quello che invece si è osservato negli ultimi, direi, quasi due anni, perché lo scorso anno, arriviamo dal 2012 con dati negativi del mondo dei fondi, tra l'altro nella prima parte pesantemente, recuperando poi nella seconda parte. Ci troviamo oggi con dei numeri importanti perché i grandi operatori, parlo delle grandi banche commerciali, dopo la crisi del 2008 e dopo la crisi del 2011 si sono trovati prevalentemente a dover reimpostare le loro politiche commerciali, cercando di andare a fare funding, quindi proporre obbligazioni proprie ai propri clienti, quindi raccogliere per risolvere un problema, esatto, di liquidità che avevano. Quindi c'è stato un lungo periodo in cui le banche invitavano gli ascoltatori gli risparmiatori a sottoscrivere per esempio obbligazioni bancarie, invitandoli poi a disinvestire dai fondi di investimento che magari avevano già acceso in passato. Adesso sta riavvenendo il procedimento, esatto, contrario. Esatto, essendo venuto un po' meno il tema della liquidità, quindi tutto il tema del funding. Tra l'altro, piccolo inciso, l'Italia è il paese a livello europeo con la maggior percentuale di debito bancario posseduto dai clienti retail, quindi è più alto rispetto a tutte le altre società europee. Questo è il risultato, diciamo, di una politica abbastanza forte tra 2008 e 2011. No? E invece adesso, anche con logiche magari di piani industriali, quindi con prodotti che hanno magari un'ottica anche di medio e lungo termine, quindi stabilizzano i portafogli, le relazioni, i rapporti con i propri clienti, si sta riorientando verso prodotti che danno magari anche rispetto ai titoli che, certo, peraltro sono a tassi pressoché, pensiamo ai governativi, prossimi allo zero. Si cerca di trovare soluzioni di investimento ben diversificate, il fondo è lo strumento migliore da questo punto di vista per cercare di dare più efficienza al portafoglio, un po' più, certo, di risultato. Isabella, oltre ai fondi flessibili, adesso allora andremo ad analizzarne anche le caratteristiche, stanno andando molto bene i fondi a cedola. Tutti i prodotti di investimento che riconoscono delle cedole a risparmiatore sono andati bene, perché naturalmente anche con la disoccupazione magari da risparmio qualcuno ha cercato di creare quel reddito mancante, no, nel bilancio, certo, della famiglia, per cui la cedola naturalmente, certo, risponde anche a questa esigenza. Ecco, infatti, ma qui ci colleghiamo proprio anche al discorso che faceva il dottor Bernardi prima, perché è vero che le banche stanno cambiando la loro politica commerciale, quindi stanno proponendo strumenti di risparmio gestito, però, e come dicevo prima, appunto, molti prodotti flessibili, ma all'interno di questa tipologia proprio dei prodotti flessibili ci sono questi famosi fondi a cedola, che sono dei prodotti che hanno diciamo cambiato radicalmente l'approccio del risparmiatore nei confronti dell'investimento, perché se prima il risparmiatore investiva per riuscire ad avere un guadagno dal proprio investimento, quindi un guadagno magari senza vederlo immediatamente, adesso percepisce il suo investimento come una sorta di investimento a reddito, cioè dal suo investimento lui vuole, certo, percepire una rendita periodica, una sorta di sostituzione tra virgolette del titolo di Stato che dà delle cedole, e poi appunto calcolando che adesso i rendimenti dei titoli di Stato sono ai minimi, a maggior ragione uno si rivolge a strumenti alternativi. Diciamo che però nell'acquisto di questi prodotti, nella scelta di questi prodotti, bisogna anche fare molta attenzione. Esatto, il tema è capire anche adesso, non è che andiamo incontro ad un'altra sbornia, ad un'altra esagerazione, questa raccolta che procede così spedita da mesi su mesi, non è che farà andare come dire, i risparmiatori ad incontrare qualche disavventura. Non lo so, adesso possiamo anche ragionare di tutto questo, quanto può continuare questa corsa al fondo di investimento. Bernardi, lei che ne dice? Ma io credo che in questo momento ci sia una forte come dire, esigenza, ovviamente per chi ha oggi ancora degli stock di risparmio e li ha conservati nei momenti di crisi, di cercare di individuare sempre di più in un momento sempre più complesso, perché insomma quando oggi si parla di fiscalità normativa che cambiano in continuazione, esatto, diventano sempre più articolati, secondo me più che iniziare a ragionare semplicemente sul prodotto, lo strumento che può essere diciamo il migliore per costruire il proprio portafoglio, e il migliore non esiste, bisogna capire le proprie esigenze e cercare di riflettere bene, andare a individuare nel mercato tra i 15.000 fondi quelli che possono fare al caso proprio. E qui diciamo che poi la voce di un professionista sicuramente è meglio probabilmente del fai da te per la gran parte diciamo delle persone che ci ascoltano, delle persone che risparmiano. Credo che questa domanda molto forte, direi in generale di consulenza, che è più servizio diciamo che prodotto, è un'evidenza che noi sentiamo molto forte sul mercato, proprio perché anche dopo i periodi di crisi 2008-2011, no, che hanno coinvolto il sistema bancario, oggi credo che ci sia proprio una polarizzazione tra chi magari offre consulenze e quindi propone strumenti che magari non sono propri, sono gestiti da altri, quindi in una situazione di conflitto di interesse minore rispetto al passato, rispetto magari ai grandi istituti che invece gestiscono meglio il debito magari piuttosto che la gestione del conto corrente, il quotidiano, no, del day by day, della gestione del denaro più che il risparmio. E questo secondo me è un trend che si rafforzerà sempre di più e darà all'industria maggiore, come dire, una prospettiva di nel medio termine una molto sfida positiva. Anche importante per l'industria che appunto sì, ormai è orientata completamente nell'ambito del servizio, appunto come diceva, più che nel collocamento esclusivo del prodotto. Ci sono degli ascoltatori? Sì, che attendono all'800 24 0024, stanno scrivendo al 349 238 6666, ritorna anche un po' la polemica, la crisi, dove ci sono questi soldi, ma anche molti ascoltatori ci raccontano dove quali fondi hanno scelto e preferito. E c'è un ascoltatore che dice anche: io con i fondi ho perso tantissimi soldi. Abbiamo fatto anche in passato, Isabella se lo ricorderà, tante puntate quando venivano diffuse le famose per esempio inchieste di Mediobanca sull'inefficienza dei fondi di investimento che costano molto, quando il prodotto rende il gestore viene remunerato, se invece il prodotto non rende anzi perde, il gestore non paga per questa perdita e tutta la perdita va naturalmente a carico del risparmiatore. Oggi c'è ancora questa polemica, Isabella? Sì, questa polemica c'è ancora, però io voglio dire una cosa, cioè secondo me è giusto che un gestore venga remunerato nel momento in cui porta a casa un buon risultato. La cosa importante è che io lo sappia, cioè tante volte magari ci sono state tante lamentele anche sul fatto che vengano applicate le cosiddette commissioni di performance, commissioni di incentivo, qualora il gestore riesca a superare un benchmark, un indice di riferimento col quale appunto si confronta. Ecco, è una pratica che appunto può far sì che il gestore venga premiato anche nel caso in cui abbia battuto il mercato, se il mercato non è andato particolarmente bene, ma se il suo fondo è andato meno bene del mercato stesso. Però nel momento in cui il mio gestore mi ottiene un risultato molto buono, ma io credo che buona parte, almeno io personalmente, penso che sia giusto che le possa anche essere dato un riconoscimento in questo senso. È chiaro, però non è che tutti i gestori sono uguali. Bisogna anche lì stare molto attenti, cercare di selezionare veramente quelli che sono i gestori, tra virgolette, seri, le case di investimento con una certa storia, con dei risultati consolidati nel tempo. Insomma, non è una cosa che uno si può inventare dall'oggi al domani. Richiede veramente un grande valore aggiunto, però è anche vero che il risparmiatore dall'altra parte, che vuole avere un valore aggiunto dalla gestione, questo valore aggiunto lo deve avere. Cioè non è possibile che ci siano dei prodotti che sono completamente magari appiattiti, esatto, su un indice, perché a questo punto compri, allora tanto vale che io vada o mi compro un ETF oppure mi compro direttamente un titolo di, certo, Stato sul mercato. E allora, Nicoletta? Vorrei leggere il messaggio di Viola da Milano che ci scrive: si toglie da conti di deposito e si mettono nei fondi per i piccoli risparmiatori, è l'unica ginnastica finanziaria consentita. Sì, l'ha detta in maniera un po' più brutale, ma è un po' quello che avevamo anche detto prima, no? Effettivamente poi il conto di deposito oggi ormai, se andiamo a guardare il rendimento, è allineato quasi ai tassi di mercato e quindi è ovvio che non conviene più parcheggiare lì la liquidità, però sono proprio due strumenti che hanno uno spirito completamente radicalmente differente. Bernardi, Banca Generali. Direi che sono due cose completamente diverse, che tra l'altro rispondono anche ad esigenze diverse, nel senso che io osservo questo nel nostro, diciamo, negli ultimi anni, da quando lavoro un po' nel settore della finanza. C'è stata un forte riorientamento da parte di tutti i risparmiatori dal parlare di rendimento al parlare di rischio. Cioè, quando ci siamo resi conto che i titoli di Stato non erano più sicuri ma avevano una volatilità uguale a quella di un fondazionario, per esempio, di un titolo azionario, la anche molto dello spread, insomma, tre anni fa 2011, indimenticabile, direi, che ricordiamo tutti. E quindi lì si è presa coscienza che oggi probabilmente, anche quando all'interno dell'industria si parla di azioni e obbligazioni, probabilmente non si parla più di azioni e obbligazioni, si parla di cose più rischiose e cose meno rischiose. Ci sono obbligazioni più rischiose delle azioni e viceversa. Ovviamente nel 2011 le banche, nelle varie politiche, no, i vari istituti hanno cercato in qualche modo di raccogliere attraverso vari strumenti, avendo lo spread a 600, 500, 700, insomma, no, avevano un margine molto importante, hanno fatto vari istituti, no, hanno aderito all'LTRO appunto per finanziarsi e acquisire poi titoli di Stato, no? Quindi qui c'è, come dire, poi una dinamica macroeconomica abbastanza complessa da analizzare, e quindi potevano permettersi di a 12 mesi di raccogliere 4, 4.5, 5, 6, insomma, si è visto un po' di tutto sul mercato. Oggi la situazione macroeconomica e i tassi non consentono più di dare questi premi, diciamo, questi tassi di rendimento, tra l'altro rendimenti a 12 mesi, dove l'esercizio, la ginnastica, come l'ha chiamata la nostra Viola, ascoltatrice, dell'investitore che voleva quel prodotto, era ogni 12 mesi magari cambiare istituto e magari nella sua ETEA, esatto, avere quel 3-4% in 5-6 anni, quando magari un investimento strutturato bene, ben diversificato in strumenti, fondi, SICA, altri titoli, ma magari ben strutturato, poteva dare nel tempo un rendimento maggiore. Lo so, però insomma in quel momento non si aveva, mi ricordo bene, la lucidità di fare delle scelte anche di lungo termine, ci siamo spaventati tutti moltissimo nel brevissimo termine, per cui è anche comprensibile un po' quello che hanno fatto i risparmiatori. Chi abbiamo? Allora, noi abbiamo prontissimo, che ci chiama da Mirandola, Andrea, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Chiedevo questo: invece di fare un fondo, fare un bel pack collegato al fondo, non è meglio? Diciamo che non escludevamo, parlando dell'uno, non è che escludevamo l'altro, perché diciamo che anzi è proprio, se adesso guardiamo alla borsa sui massimi, ai titoli di Stato sui minimi, forse è l'unica modalità per entrare nei fondi di investimento, quella del piano di accumulo. Ce ne sono molti, tutte le case di investimento, tutte le società di gestione ne propongono, no? Isabella? Sì, ma io dunque caldeggio vivamente questo tipo di scelta, francamente, perché come dicevi tu, con la formula del PAC innanzitutto si riesce a eliminare quello che è il problema del timing, cioè quando entrare sul mercato. In qualsiasi si mediano un pochino quelli, certo, che sono i picchi, no, del mercato, e poi appunto si ha l'opportunità, quando il mercato scende, anche di acquistare più quote del fondo stesso, e quindi pian pianino di mettere da parte un buon quantitativo di risparmio senza che questo pesi troppo sulle nostre tasche. Cioè, ci costa di più anche entrare in un fondo con un PAC, e quindi gradualmente, che fare un investimento tutto in un'unica soluzione iniziale? Sì, ecco. costa leggermente di più, però io credo personalmente che il beneficio che viene tratto da questo tipo di veicolo sia comunque ben prezzato, nel senso che ci sono persone che diversamente non investirebbero. In quel modo lì anche bastano anche solo 100 euro al mese che tu metti nel tuo fondo con un banale RID, quindi non devi fare alcuno sforzo, alcun prelievo diretto, però in quel modo lì, visto che il PAC, ecco, è rigorosamente uno strumento di lungo periodo, non è che io apro un PAC e fra tre mesi mi viene in mente di disinvestire. Posso farlo, sì, perché certo, se succede qualsiasi cosa io posso farlo, ma non è questa la filosofia che deve stare dietro all'investimento in un PAC. Però nel lungo termine, senza magari accorgersene tra virgolette, io riesco a mettere da parte un buon capitale. Ecco, certo. Il PAC mi sembra più consigliabile su un prodotto azionario. Vanno a passo sostenuto come la raccolta dei fondi di investimento. Noi nella seconda parte della trasmissione parliamo di chi vorrebbe andare a passo sostenuto, correre, allenarsi, giocare a calcetto, andare in bici e invece si trova a fare i conti con una serie di disturbi che possono spegnere il piacere di allenarsi, dalle pubalgie ai crampi, dal dolore al ginocchio a quello che interessa la pianta del piede, senza dimenticarci della sofferenza dei nostri tendini. Tanti disturbi, un unico numero verde, 800 24 0024, per tornare in gamba. Una monetina per te, un'altra monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti e l'altra per sparire. Una monetina per te. Isabella Della Valle ti stava facendo i complimenti per quanto sei brava. No. Sono un po' gelosa. O parlavate di altri, insomma. Qua anche un po' di gossip ovviamente si fa a cuore denari, ma dobbiamo anche un po' alleggerire qualche volta gli argomenti. Parliamo sempre di crisi, di difficoltà, e oggi parliamo di risparmio, perché da una parte abbiamo buone notizie: questi fondi di investimento che fanno una grandissima, enorme raccolta. Ci siamo chiesti da dove arrivano tutti questi soldi. Arrivano da disinvestimenti, da obbligazioni bancarie che molti italiani hanno sottoscritto in questi ultimi anni di difficoltà, e quindi ecco da dove arrivano questi risparmi. 800 24 0024, il numero verde per le vostre domande. Nicoletta, chi sentiamo tra i due ascoltatori? Allora, andrei a Roma, ci allarghiamo fino perché poi torniamo a Milano. Giulio, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora, io sono un professionista che è abituato da molti anni, per esperienza e passione, a gestirsi da solo. Ho sentito dei testioni. Ora, le gestioni, il tema delle gestioni, sì. Le gestioni in genere gestiscono il loro fondo e quindi consigliano sempre il loro fondo, gran parte di queste gestioni. Sappiamo benissimo come sono andate nei tempi critici queste gestioni. Un esempio di tutto questo sono gli ETF. Sì. Lei va da un gestore che non le consiglierà mai un ETF, mentre l'ETF dà una garanzia a chi compra che riproduce il mercato nei singoli aspetti e nei singoli sottostanti. Li abbiamo citati anche un attimo fa, Giulio, ma l'industria conosce molto bene questa concorrenza assolutamente forte ed importante, perché molti italiani in realtà tutti i vantaggi dell'ETF hanno imparato a conoscerli negli ultimi anni, a partire da quelli economici, perché per esempio, tanto per investire appunto su un ETF non si devono pagare molte commissioni di sottoscrizione, no? Isabella, replicano tutti i mercati e teoricamente un gestore dovrebbe fare meglio dell'ETF. No, ma quello che dice l'ascoltatore è vero, cioè l'ETF può essere uno strumento molto molto utile, nel senso che se uno ha ben preciso un obiettivo, dice io voglio replicare quel mercato, oltretutto adesso replicano davvero tutto, ecco, dalle materie prime. Poi viene anche l'altra faccia della medaglia, perché se io mi compro un tipo di ETF che mi replica un certo mercato, so che questo ETF seguirà il mio mercato nel bene e nel male. Il vantaggio è che appunto costa poco, mi replica l'andamento di un indice, mi permette una diversificazione che diversamente in via autonoma io non potrei ottenere. Attenzione però, perché ci sono i sottostanti, cioè ci sono i cosiddetti ETF fisici oppure quelli sintetici, al cui interno, per replicare lo stesso indice, non è detto che ci siano gli stessi titoli nei quali investe. Ecco, però bisogna anche lì cercare sempre di capire quello che si acquista. Adesso anche appunto il mercato degli ETF è molto evoluto, abbiamo dei prodotti veramente tanto sofisticati, per cui cui sono anche indirizzati non solo al risparmiatore, certo, che banalmente si vuole comprare un indice di borsa, ma anche all'investitore istituzionale più. Ecco, sì. E vorrei dire una cosa: non è proprio vero che nelle gestioni non vengono proposti questi ETF, perché ci sono anche dei servizi, esatto, di gestione che vengono fatti anche perché sia le gestioni, con i fondi, esatto, sia con l'ETF, perché il gestore stesso, laddove non può arrivare a coprire un certo mercato oppure per dare più completezza anche all'offerta commerciale, all'offerta, diciamo, che viene fatta, inserisce all'interno delle gestioni l'ETF. Allora, detto questo, voi come la combattete, Marco Bernardi, la concorrenza degli ETF che si è fatta molto agguerrita negli ultimi anni? Molti risparmiatori cercano questi prodotti di investimento, soprattutto, dobbiamo anche dire, quelli che o si rivolgono alla consulenza indipendente o quelli che invece fanno proprio il fai da te e gestiscono completamente, indipendentemente da tutti i consulenti del mondo, i propri risparmi. Ma io la vedo in questo modo, riprendo un po' quello che ho detto, nel senso che secondo me l'ETF è uno strumento evidentemente valido perché ha determinate esigenze per mettere insieme dei mattoncini e costruirsi un portafoglio, però una persona che magari da sola, quindi senza nessuno che può, come dire, che lo consiglia a livello, dico, professionale, vuole costruirsi un portafoglio, non ha, non so che strumenti può avere a disposizione per controllare magari il rischio di quel portafoglio, ovvero ho migliaia di ETF, quali scelgo, come li peso, esatto, come lo modifico, cioè, all'interno del portafoglio, migliaia, sì. È evidente che se io voglio far da me costa meno, se voglio avvalermi di un gestore professionista, di un consulente, evidentemente il costo di questo servizio qualcuno, certo, evidentemente deve in qualche modo prendere. Mi ricordo nel 2004 feci una trasmissione Salvadanaio con Raffaele Ierusalmi di Borsa Italiana sul primo ETF che replicava la Borsa Italiana. Da quel momento in avanti sono passati 10 anni, sì, e praticamente adesso replicano di tutto, dalle materie prime, le valute che si combinano tra di loro, mercati, sì, emergenti, ci sono gli ETF, quindi a leva, cioè sono quindi insomma molto, anche lì è molto, anche lì insomma è cresciuto tantissimo il mercato. Sì, è diventato. Allora noi abbiamo in attesa Roberto che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Io sono una consulente indipendente e fermo restando chiaramente che, come sappiamo, non si può mai generalizzare, però credo che questi fondi cosiddetti a cedola siano la ennesima azione di marketing per cercare da una parte di spingere e da una parte di seguire un po' le esigenze, a volte psicologiche, esatto, psicologiche. Io vedo anche certi miei clienti che effettivamente non hanno l'esigenza di integrare pensione piuttosto che stipendio, ma il fatto di vedere che ogni mese, ogni tre mesi arriva questo accredito che ricorda cedola, un po' la cedola del BTP, che, ecco, ecco, questo però c'è da dire che la maggior parte, ripeto, non generalizziamo, ma per quello che vedo anche con altri colleghi, hanno chiaramente il rovescio della medaglia, cioè anche quelli che garantiscono, o meglio, in particolar modo quelli che garantiscono una cedola del 4-5%, c'è la famosa clausola scritta ovviamente piccolino in cui dice che se il rendimento dei fondi o dei titoli sottostanti non sarà sufficiente a coprire la cedola, verrà in pratica prelevato dal capitale. Allora guardi, aspetti lì, no, che le faccio fare il consulente. Luigina ci scrive: ho comprato un fondo di questo tipo, lo dico anche qual è, un Schroders Dividend. Schroders è una blasonatissima casa di investimento appunto anglosassone. Ogni tre mesi mi dà qualcosina, ci dice Luigina, questo trimestre però è in perdita, mi remunererà ugualmente? Lei che ne dice? Allora lì chiaramente in particolare chiaramente non mi ricordo a memoria quel fondo, no, però ci mancherebbe altro. Potrebbe essere una delle caratteristiche chiaramente, cioè nel senso che i cosiddetti fondi obbligazionari che distribuiscono anche loro chiaramente le cedole possono chiaramente nell'arco degli anni, perché in base a come vanno ovviamente i tassi e non so, l'andamento magari dei titoli sottostanti, ci possono essere dei periodi in cui chiaramente il titolo scende di valore chiaramente, e magari anche quindi la cedola, certo. L'importante ovviamente come sempre, dato che hanno caratteristiche diverse, è leggersi bene il prospetto e capire bene, perché l'inghippo sta che questi fondi sono chiaramente venduti a man bassa perché hanno delle cosiddette commissioni di upfront per e non quindi quindi insomma sono molto, no, ma sono remunerativi per chi li distribuisce e li vende, li colloca, certo Roberto. Sono spinti molto, però chiaramente se io inizio ad acquistare un fondo in cui ho questo benedetto affront del 4,5% e magari il fondo dura 5 anni, vuol dire già che io ho chiaramente il fondo che senz'altro dovrà partire un po' con i sacchetti di sabbia ai piedi. Ottimo, Roberto, grazie. Grazie per la sua consulenza in diretta su vizi e virtù del fondo di investimento Acedola, del quale peraltro appunto avevamo già detto qualcosa all'inizio. Tanto che Banca Generali dice noi manco li distribuiamo, non ce li abbiamo neanche a casa nostra. Noi siamo stati una delle poche realtà che sui fondi Acedola ha deciso, diciamo, di andare un po' in controtendenza e di non averne. Ne abbiamo una quantità limitata, certo, che avevamo in portafoglio prima, ma non abbiamo cavalcato un po' la moda, se vogliamo. Non vorrei però adesso neanche spaventare tutti coloro che invece hanno fatto questa scelta di investimento e continuano ad incassare le loro cedole, però insomma sono prodotti che, come tutti tutti i prodotti di investimento al mondo, hanno le loro naturalmente anche caratteristiche non propriamente positive. Allora, che facciamo? Un minuto e mezzo di tempo prima dei saluti? Abbiamo ancora Luigi dalla provincia di Milano, ce la facciamo? Sì, sarà telegrafico Luigi. Ma possiamo anche scavallare Luigi. Sono telegrafico, ascolti, io ho avuto delle esperienze negative sui fondi, non so se è il gestore che non funzionava. Comunque, è solo quello il motivo, immagino Luigi, non credo che possa essere successo altro. Con dei botti in cui mi ha dato il 4%, poi scadevano nel 16%, per cui da 92 ho preso 104 e vabbè. Però attualmente devo tenere una cifra abbastanza disponibile e mi trovo bene con la Posta. Attualmente mi è arrivato ancora ieri una lettera della Posta che dice che fino alla fine dell'anno sul libretto postale MAC c'è 1,65. Luigi, però sono proprio strumenti di investimento radicalmente diversi. Libretto di risparmio è proprio, come dire, la liquidità pura. Il fondo di investimento ha tutta un'altra filosofia, un altro spirito. Io adesso non che non lo dobbiamo guardare più una volta che investiamo, monitoriamoli almeno una volta, due volte l'anno, facciamo una chiacchierata col consulente di investimento che ce l'ha suggerito, eccetera. Però non è che possiamo stare a guardare il rendimento giorno dopo giorno. Ci faccia Marco Bernardi, chiudo con lei una piccola consulenza prima dei saluti, come dire, due suggerimenti di buonsenso agli ascoltatori che sono interessati comunque a mettere un po' del loro risparmio, perché anche lì, anche se lì è proprio il re della diversificazione questo strumento di investimento, ma insomma a che cosa deve fare attenzione, quali domande deve fare al consulente per avere chiarezza su questo investimento. Ma io credo che ognuno di noi prima debba farsi delle domande a se stesso, nel senso capire bene cosa vuole dal proprio risparmio e dal proprio, diciamo, prospettive, no, di vita futura, quindi cosa farò nei prossimi 10 anni, 15 anni, 5 anni. Ammettendo di avere questo lungo termine per poter accantonare gradualmente con un pack sul fondo. Io suggerisco sempre comunque soluzioni di investimento molto diversificate, dove molto diversificate non significa, il fondo è già di per sé molto diversificato, ma magari diverse società di gestione, evidentemente, ecco, non necessariamente quelle di collegate, diciamo, alla banca, che magari potrebbe essere la prima che la persona allo sportello propone, ma cercare di andare a individuare marchi importanti, non farsi così abbindolare, se vogliamo, dalla performance dell'ultimo anno, perché spesso la proposta è il fondo ha reso nell'ultimo anno il 10%, si dà per scontato che renderà il 10% anche l'anno prossimo. Questo è un grande cavallo di battaglia di Isabella Della Valle, lo scrive sempre, è l'esatto contrario di quello che facciamo quando facciamo shopping, cioè le cose le compriamo quando i prezzi scendono, non quando salgono, no? Le compriamo durante i saldi, non le compriamo durante l'alta stagione. Quindi fare un'attenta riflessione di questo tipo e poi non tutti i giorni, ma magari 2, 3, 4 volte l'anno, prendersi il giusto tempo per andare a vedere cosa sta succedendo e magari fare dei correttivi. Ottimo. Senza stravolgere magari l'impostazione, ma magari andando a spostare quel 10-15% e cercando di pensare soprattutto nel lungo termine, quindi mi immagino più azionario, cioè una componente di rischio maggiore, se uno magari è anche giovane, magari pensare al mondo di domani più che al mondo di oggi, perché l'economia magari non sarà più Italia e Europa, magari sarà il resto del mondo, quindi una riflessione va fatta. Bellissima riflessione, mi è piaciuto. Ti è piaciuta? Molto. Non mi andare a comprare il fondo adesso perché ti devo trattenere, ti vedo già subito dopo te. Grazie Isabella Della Valle, Marco grazie Bernardi, grazie molto. Andiamo a prenderci cura delle nostre caviglie? Non solo le caviglie, partiamo dalla pubalgia e scendiamo giù sino ai piedi in viaggio. Ho iniziato qua, alla fine di quella partita lì praticamente non avevo più forza quasi di camminare e mi sono fermato e speravamo tutti appunto fosse una cosa da niente. Abbiamo fatto tutti gli altri vari esami, abbiamo riscontrato appunto questo problema alla sintesi pubblica, dove queste due ossa del pube, dove obiettivamente c'è anche della, cioè, ci dovrebbe essere della cartilagine che oramai non c'è più. Eccolo qua lo avete ascoltato, Federico Balzaretti, giocatore della Roma, che non scende in campo per un problema alla sinfisi pubica che non accenna a passare nonostante si sia sottoposto a due interventi, a cicli di terapie fisiche. Tutto è iniziato da un dolore al pube, come abbiamo sentito, che si credeva fosse passeggero, ma che invece, ahimè, si è cronicizzato al punto che al momento Balzaretti non riesce a correre. Buongiorno dottor Gianluca Melegatti, medico sportivo e primario del centro di riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, che è venuto qui in studio a trovarci. Bentornato. Grazie, buongiorno. Dottor Melegatti, qui abbiamo bisogno di lei. Che cos'è la sinfisi pubica? Rientra nel grande capitolo delle pubalgie, anche se in realtà no, sarebbe una cartilagine, no? La sinfisi pubica è un'articolazione, sì, che congiunge le due ossa del pube anteriormente al bacino, ed è un punto critico e fa parte della grande famiglia delle pubalgie. È uno degli aspetti clinici della pubalgia, direi uno dei peggiori, perché è uno di quelli più difficili da curare, perché interessa non solo la cartilagine, ma interessa anche l'osso. L'osso che compone l'articolazione, quindi le due ossa pubiche spesso sono così infiammate, certo, da risultare veramente dolenti anche a riposo, ed è molto difficile curare questa forma di pubalgia. Ne soffrono i calciatori, ma la pubalgia può mettere KO maratoneti, corridori, schermitori, atleti di basket, pallavolo, e tutti quanti sollecitano le gambe in maniera intensa e ripetitiva. Credo quindi, dottor Melegatti, che possono anche colpire chi si dà da fare, ad esempio con le macchine in palestra per potenziare quadricipiti, addominali. Io sto benissimo, no, non ho questi dolori. Io dico anche chi va in palestra, non sono solamente i giocatori. In realtà dipende molto da quello che uno fa in palestra. E se lo fa bene. E se lo fa bene. Faccio benissimo. E la Deborah è perfetta. Ma bisogna permettere un attimo di ordine nella pubalgia, perché è un capitolo, è una patologia molto complessa, sì, e molto invalidante. Ed è una serie di sintomi e di segni clinici, infatti noi la consideriamo come una sindrome, che è correlata proprio a più cause, ed è anche correlata allo sport, naturalmente, perché interessa persone che fanno attività sportiva, soprattutto atleti di potenza, quindi atleti che giocano a calcio, che giocano a rugby, hockeyisti anche. È una patologia molto che interessa molto ai giocatori di hockey, proprio per le sollecitazioni di taglio che vengono impresse a livello proprio dell'area, della zona pubica, che è una zona anatomicamente molto complicata, perché alla zona del pube, intorno al pube, arrivano moltissime strutture tendine e muscolari, e quindi ecco la genesi multifattoriale. È un termine molto generico, il termine, sì, pubalgia, che racchiude proprio molti aspetti clinici. Quindi se volete saperne di più, vi invito a mettermi in contatto con noi, il nostro numero verde 800 24 00 24. Anche se non siete campioni, non giocate in Serie A ma a calcetto con gli amici, se non siete maratoneti ma amate correre per tenervi in forma, o se non siete anche dei nuovi Nibali ma le due ruote hanno per voi un fascino particolare. Dottor Melegatti, lei ha detto che voi vi parlate di sindrome, proprio perché la pubalgia è un problema abbastanza complesso. Il nome già ci dà un'indicazione, sì, parte dal pube e si irradia fino a interessare anche la parte interna della coscia. Non solo, anche la muscolatura addominale, anche l'apparato genitale. Ecco perché crea molta confusione e trae spesso in inganno quando si deve fare una precisa diagnosi. Quindi è proprio tutto questo, la genesi multifattoriale può mettere in grande difficoltà il medico che si approccia a trattare questo paziente. Direi che i tre grossi aspetti clinici che compongono la pubalgia sono un problema tendineo, soprattutto a livello degli adduttori, un problema a livello del canale inguinale, la classica ernia dello sport, e poi poi anche l'osteite pubica, quindi l'infiammazione della sinfisi pubica, che purtroppo ha colpito Balzaretti. E non solo, tanti altri giocatori anche in passato. Noi partiamo, come abbiamo detto, dal caso Balzaretti, quindi partiamo dalla pubalgia, ma come anticipato scenderemo via via sino ai piedi per intercettare quei disturbi che possono manifestarsi durante o in seguito all'attività sportiva e che, se trascurati, possono possono costringerci ad interrompere gli allenamenti e nei casi più gravi compromettere anche la salute del nostro apparato muscolo-scheletrico. Certo. Si può prevenire la pubalgia in modo da evitare di incorrere in questo dolore che insomma abbiamo visto è un problema, è un segnale di un problema abbastanza complesso. Certo, si può assolutamente prevenire, la prevenzione è il primo la prima strategia che noi mettiamo in atto. Non sempre però la prevenzione può essere utile e efficace, perché abbiamo a che fare con sportivi naturalmente di diversa natura e di diverse discipline sportive con impegno diverso, quindi le sollecitazioni dell'atleta professionista non sono le sollecitazioni dell'amatoriale, e quindi è chiaro che la prevenzione gioca un ruolo fondamentale, ma spesso si è portati a eccedere con i carichi durante l'allenamento, e questo può provocare l'esordio, l'insorgenza di questa fastidiosissima sindrome. Speriamo che Eleonora Bagnato lo coccoli, poverino. Vedi, perché avrà cure amorevoli, senz'altro. Lo so, penso per uno sportivo, immagino per un campione anche di questo standing, immagino che dovresti fermare per questo, poi non vedere miglioramenti, perché mi colpiva leggendo gli articoli di questi giorni che proprio in questi due anni, credo, di problema, addirittura ha avuto un deterioramento della... Sembra che, sia peggiorato. Gli interventi e anche le terapie fisiche non abbiano dato risultati. Purtroppo quando si deve arrivare a curare chirurgicamente questo problema, poi è frequente avere qualche ricaduta. E quindi è veramente un problema invalidante che però può essere risolto. Il problema è che lo sportivo spesso non ama fermarsi e allora tende a sottovalutare i segnali. Vogliamo allora, prima di andare a sentire i nostri ascoltatori e dare poi la linea al nostro GR, dare quelle indicazioni chiave che possono, se riconosciute, evitare che il problema venga trascurato e quindi peggiori? Certo, intanto la pubalgia, lo dice il nome, è una sindrome dolorosa. Sì. Quindi il dolore è il primo sintomo ed è quello a cui bisogna fare riferimento, non bisogna trascurarlo. È chiaro che un dolore che insorge a riposo e che magari aumenta col riscaldamento, ma che poi se ne va con l'attività sportiva, è un dolore che si può gestire continuando l'attività sportiva. Ma quando il dolore inizia col riscaldamento e sale durante l'attività sportiva, e quindi in modo direttamente proporzionale con l'aumento del carico, allora quello è un segnale chiaro per cui bisogna fermarsi e curare il problema. Può essere unilaterale o bilaterale? Spesso monolaterale. Nella stragrande maggioranza dei casi si manifesta monolaterale. Quando si manifesta bilaterale vuol dire che la infiammazione, l'estensione dell'infiammazione si è diffusa, e quindi il problema è maggiore. La pubalgia viene anche chiamata, lei l'ha anticipato, dottor Melegatti, però io devo lasciare poi il tempo al GR. No, è vero, c'è che ce l'abbiamo. Chi è che anche ti mette ernia del... è Pietro La Corte che mi guarda. E dato che è carino, molto carino, sai, mi mette un po' in soggezione. Viene chiamata anche ernia dello sportivo, certo. È difficile diagnosticare quando è una pubalgia e quando invece è un problema di ernia, che a sua volta dà una pubalgia, un dolore pubalgico, e quindi può creare confusione. Certo. In effetti la confusione che si genera spesso è perché ci sono dei quadri che si sovrappongono, quindi noi possiamo avere una classica pubalgia da tendinite degli adduttori con una sovrapposizione della infiammazione della parete posteriore del canale inguinale, che è l'ernia dello sport. Quindi per non farci mancare niente possiamo avere entrambe le cose, e il quadro si complica parecchio. E allora, se avvertite dolorini e siete sportivi e al punto da dovervi fermare, oppure state stringendo i denti per continuare, continuate a restare con noi, ne parleremo dopo il GR. Cuore e denari. Bicipite, trapezio, grande sale, piccolo rotondo, sterno, clido, monster girl, flessore, sensore, pronatore, grande psoas, brachiale, mediale, deltoide, pettorale. Ed ecco Eccoci, siamo tornati insieme, siamo partiti dalla storia di Federico Balzaretti che a causa di un dolore, un problema alla sinfisi pubica che rientra nel grande capitolo delle pubalgie, deve rimanere al palo, non può scendere in campo. Insomma, potremmo intitolare, Deborah, questa seconda parte del programma con quando l'attività sportiva presenta il conto, perché oggi vogliamo proprio parlare di tutti quei disturbi più o meno invalidanti con cui anche gli sportivi amatoriali si possono trovare a fare i conti. Il corpo, lo sappiamo, parla, manda dei segnali, ma spesso chi è appassionato tende a sottovalutarli. Ma oggi cerchiamo di prestare orecchio, come si dice, ci aiuta a farlo il dottor Melegatti, che è qua in studio con noi. Deborah, e quindi tu che sei una sportiva vera. Sì, esatto, adesso sto cercando di farmi mentalmente un check-up per capire se ho qualche doloretto addosso, anche esagerando un po' con l'attività sportiva, perché in certi periodi, quando ho tempo, lo faccio, però al momento non avverto nulla, quindi spero di non star sottovalutando niente. Però insomma, chi pratica in maniera continuativa un'attività sportiva di in qualunque tipo, credo che prima o poi un doloretto lo debba mettere in conto. Secondo te conta l'età, Nicoletta? Perché a me l'età? No. Dottor Melegatti ha sentito, Sì, è vero, mi è venuta male, devo dire. Però insomma, magari andando avanti, insomma, se sgambetto sullo step, non è che posso continuare a farlo fino a 60 anni. Che dite? No, io penso che conti anche il modo in cui noi ci alleniamo, la gradualità, la costanza, la frequenza, il nostro appoggio. Conta anche il fisico, no, dottor Melegatti? Sì, contano gli obiettivi che ci vogliamo dare, quello che vogliamo ottenere dallo sport. Se vogliamo ottenere benessere in generale, allora l'allenamento deve essere indirizzato a quello, con dei carichi molto graduali, con una programmazione ben fatta dell'allenamento, privilegiando magari attività aerobiche o di rinforzo muscolare leggero. Se invece gli obiettivi sono altri, quindi sport agonistico, allora gli allenamenti si intensificano e i carichi di lavoro devono per forza essere progressivamente crescenti. Allora, abbiamo tanti ascoltatori che hanno provato ad ascoltare il loro corpo e hanno fatto una cosa giusta, hanno chiamato il nostro numero verde. Laura ci chiama da Roma e andiamo da lei, Deborah. Andiamo da lei perché aspetta peraltro dall'altra parte di Cuore e Denari, per cui ha assolutamente la precedenza. Laura, buongiorno. Buongiorno e grazie per la possibilità. Io volevo far presente una situazione di questo tipo. Io ho 54 anni, patologie forti al ginocchio, nel senso che mi sono rotta una volta il legamento crociato, un'altra volta il menisco, quindi operazioni, terapia per riprendere. L'anno scorso mi è stato diagnosticato, e non lo sapevo, il piede cavo. Sì. Non me ne ero mai accorta. E allora volevo sapere, siccome io mi piace correre, faccio un running abbastanza leggero, non pesante, però mi piace molto camminare, andare in bicicletta, quali sport sono indicati o quali cose devo proprio evitare, insomma. Quindi l'attività fisica indicata per le persone che hanno il piede cavo. Laura l'ha scoperto solo ora, ma non dobbiamo considerare il piede cavo come una patologia. Il piede cavo è ce l'aveva anche Cenerentola. Il piede cavo è detto anche piede veloce, quindi è meglio avere un piede cavo che un piede piatto, prima di tutto. E quindi, però, certo è che il piede cavo può predisporre a qualche problema di sovraccarico. Sì. Allora, intanto non ci sono limitazioni per quanto riguarda l'attività sportiva in relazione al piede cavo di per sé. Quindi uno col piede cavo può fare qualsiasi tipo di attività sportiva. È chiaro che il consiglio di una persona di 54 anni, ancora in forma sicuramente, ma che ha avuto problemi al ginocchio, possono essere quelli di trovare il modo di ammortizzare il proprio peso durante l'attività sportiva. E questo lo si può fare con una scelta molto attenta della scarpa che si utilizza e con una soletta plantare, che in genere è fatta di materiale moderno, ammortizzante, che assorbe lo shock durante la corsa. Quindi soletta plantare per ovviare e per sostenere il piede cavo e una scarpa adatta al tipo di attività che si svolge. E in questo modo mette le ali ai piedi. Un'ultima cosa, non solo, attenzione proprio in funzione del piede cavo alla flessibilità della muscolatura degli arti inferiori. I muscoli devono essere sempre molto flessibili, quindi lo stretching deve essere assolutamente fondamentale. Ma gambe, ma le gambe a me piacciono. Eh sì, ve l'avevamo promesso, dalla pubalgia scendiamo, andiamo verso i piedi. Avevamo già fatto una piccola fermata con l'intervento della nostra ascoltatrice, ma noi ci fermiamo adesso alla coscia, perché pensateci un po', a chi giocando a calcetto, a tennis, non è capitato di sentire un dolore forte, lancinante, proprio lì, proprio in mezzo alla coscia, come se fosse un morso, no? Allora solitamente uno magari cerca di resistere, stringe i denti, però si accorge che non è più quello di prima, insomma non è, non può spingere al massimo. Sono, dottor Melegatti, queste le famose lesioni muscolari, che spesso generano dubbi e confusione, però sono tra i più comuni traumi in medicina dello sport. Il problema è, come abbiamo detto, che spesso lo sportivo non si vuole fermare, e per questo forse la lesione muscolare viene più spesso bistrattata che trattata. Ma lì il problema si fa serio. Sì, ci aiuti un serio. Po' con una definizione, con certo. Un intervento. Beh, la definizione di lesione muscolare è veramente antica, proprio perché il problema muscolare nello sport è uno dei maggiori problemi che addirittura può portare anche all'abbandono dell'attività sportiva stessa, proprio perché le recidive di lesioni muscolari sono quanto di peggio noi dobbiamo affrontare nella nostra pratica con atleti. Sono state fatte tantissime classificazioni, ma una classificazione moderna che abbiamo stilato recentemente con una società scientifica di livello internazionale prevede che ci siano delle infortuni non strutturali, quindi lesioni muscolari non strutturali e lesioni muscolari invece strutturali. Gli infortuni non strutturali sono quelli che non prevedono la rottura delle fibre muscolari, sì. E sono quelle del, per esempio, l'affaticamento muscolare oppure la contrattura del muscolo a seguito magari del mal di schiena, quindi sì. Una sorta di perturbazione elettrica. Poi ci sono invece gli infortuni strutturali, che sono quelli che prevedono la lesione di alcune fibre muscolari, e a seconda di quante fibre muscolari noi abbiamo rotto nel muscolo abbiamo lesioni di primo, secondo o terzo grado. Si recupera? Si recupera, direi, sempre. Sì. È molto raro dover sottoporre l'atleta a intervento chirurgico. È chiaro che, dipendentemente dalla gravità e dal tipo di lesione e anche dalla sede della lesione, ci sono dei tempi di recupero diversi. Il dolore è forte? Il dolore in una lesione muscolare classica di secondo grado, la classica lesione della coscia posteriore, sì. Può essere veramente forte, può far accasciare l'atleta che cade a terra per il dolore e per la limitazione funzionale. Questa è una lesione classica che viene curata bene, che prevede la totale restituzio ad integrum, e quindi l'atleta ritorna a fare la sua attività sportiva in 3-5 settimane, a seconda proprio del tipo di muscolo e della sede della lesione. Allora, dalla coscia noi tra poco passeremo naturalmente al ginocchio, certo. Ma prima vogliamo dare la parola ai nostri ascoltatori che forse ci aiutano a fare queste fermate. Ce lo metto nel ginocchio, come si suol dire, su un piatto d'argento. Credo che voglia proprio interrogarci su questo Massimo da Bologna, che salutiamo. Massimo, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Grazie a lei, ci dica. Allora, io ho questo problema qui, che quando vado a correre dopo 4-5 chilometri mi viene male esternamente al ginocchio. Ed è un dolore che si acutizza se corro su un piano inclinato o in salita. Mi viene niente dopo un po'. È liberatorio però, Massimo, perché in questa puntata tutti noi possiamo lamentarci, devo dire. Questo mi piace. L'angolo del lamento qui che è veramente, allarga un po' il cuore, è rassicurante. Devo dirle, Massimo, che anche gli esperti della prima parte di Cuore Denari, appena hanno visto il dottor Melegatti, vero, hanno detto subito uno al ginocchio, hanno avvertito il dolore improvvisamente. Stessa domanda. Ecco, quindi rispondendo a Massimo rispondiamo anche ai nostri esperti. Questo depone per il fatto che quello che Massimo ha è molto frequente. Nei corridori, nei runner, il dolore nella parte esterna del ginocchio è molto frequente, soprattutto se c'è un vizio di una alterazione della struttura del ginocchio. È molto frequente avere delle ginocchia valghe che possono avere un sovraccarico nella parte esterna del ginocchio presentare un problema infiammatorio al menisco oppure alle strutture periarticolari. Certo. Che fare? Intanto dare retta sempre al dolore e fermarsi quando il dolore diventa progressivo, verificare bene la situazione della flessibilità della muscolatura e della forza della muscolatura del quadricipite, e verificare bene anche le scarpe che si stanno utilizzando e capire se sono scarpe che hanno già fatto il loro hanno tempo, esaurito la loro capacità di ammortizzare. Bellissimo. In genere, tema 700 km dura una scarpa da running. Allora, dottor Melegatti, dato che parliamo di dolore, e come Deborah anticipava, lo sportivo un po' di dolore lo mette in conto, certo, un po' deve stringere i denti, insomma la fatica, farei un po' di fatica. Io vorrei ricordare un rimedio che ha delle conferme anche scientifiche certo, che lei consiglia agli atleti professionisti, ma che consiglia naturalmente anche agli ascoltatori di Cuore Denari. Certo. Noi lo chiamiamo il rimedio del dottor Melegatti. Noi abbiamo dei punti, il rimedio del dottor Melegatti, il piatto del dottor Ongaro. Io con Deborah abbiamo un po' questi, no? Questi passaggi. Certo, in realtà è un rimedio ben conosciuto e ben studiato. Noi abbiamo contribuito dal punto di vista scientifico a dimostrare che è molto efficace, ed è l'immersione in acqua fredda fino alla vita. Naturalmente stiamo parlando di atleti che utilizzano gli arti inferiori, sì, e quindi l'immergersi in una vasca di acqua tra i 7 e i 10 gradi per almeno una decina di minuti, avendo naturalmente cura di coprirsi bene la parte superiore del corpo, perché sennò si barbella dal freddo, come si dice a Milano. Io non ce la farei. È molto utile per smaltire la fatica e per creare la vasocostrizione e per limitare la produzione di acido lattico, e soprattutto per limitare il danno, il micro danno che si provoca alle fibre muscolari durante la corsa. Quindi dopo un allenamento intenso, dolente, tornate a casa, riempite la vasca da bagno. Lo potete fare anche avendo una vasca da bagno, riempite la vasca di acqua fredda, se ce l'avete a disposizione qualche cubetto di ghiaccio che galleggia, e sì, vi immergete fino alla vita con una bella felpa pesante. State possibilmente a stomaco vuoto, facciamo la sciocchezza. Questa è una prova di resistenza, bello, che però dà i suoi risultati. E dottor Melegatti, lei mi diceva che in questo modo voi avete risolto anche dei casi di pubalgia. Sì, certo, e quindi non è solamente defatigante, ma è anche terapeutico questo trattamento. Si viene utilizzato per trattare patologie come la pubalgia, che sono multifattoriali e possono interessare diverse strutture in un'area anatomica, come abbiamo detto, molto complessa. E serve anche per così spegnere o attenuare quei dolori al ginocchio che sono così frequenti, perché il ginocchio ne ha sempre una, perché detesta, sì, un'articolazione, l'abbiamo parlato tante volte, un po' complicata, detesta le sollecitazioni, si usura, gonfie, duole, insomma ne ha sempre una sta ginocchio. Infatti, sentiamo che cosa c'hanno le ginocchia di Raffaele da Torino. Allora, Raffaele, buongiorno. Buongiorno, salve. Che cosa è successo alle sue ginocchia? Niente, io le sento indolonzite, le sentivo un po' indolonzite. Io cammino solo, non faccio non faccio chissà cosa. Mm-hmm. No? Cammino perché il dietologo mi ha detto di camminare per dimagrire un po'. E ce l'ha fatta, Raffaele? Sì, qualcosa ho perso, però gli ultimi sono molto molto difficili. Lo so, sono quelli più affezionati. Altro che. Niente, per questo dolore qui ho chiesto al medico cos'era, mi ha fatto fare delle analisi e hanno trovato la cartilagine un po', diciamo, inclinata, un po' consumata, e mi hanno consigliato di fare delle infiltrazioni di acido ialuronico. Sì, l'acido ialuronico è un... si sente spesso parlare di acido ialuronico anche per spianare le rughe, ma viene utilizzato anche in ortopedia e in traumatologia per le articolazioni, per oliare un po' le articolazioni. Sì, per migliorare l'ambiente articolare e per lubrificare l'articolazione. Non è la panacea di tutti i mali, però può aiutare se unito anche ad altri presidi, come l'attenzione, come abbiamo detto, alle scarpe che si utilizzano, ai terreni su cui si cammina o si corre, perché un conto è correre sull'asfalto e un conto è correre o sulla pista o sul treadmill oppure su terra battuta. Quindi gli aspetti da considerare sono parecchi. E comunque acido ialuronico è un valido presidio, ma bisogna inquadrare bene il problema. Ma cosa fa in sostanza? Toglie il dolore o toglie o ha una sorta di funzione terapeutica? Ha una sorta di funzione terapeutica. Diciamo che la funzione terapeutica si sviluppa per il 70-80% in modo meccanico, migliorando la lubrificazione, quindi abbassando gli attriti, e quindi se ci sono meno attriti c'è anche meno produzione di calore e quindi meno infiammazione. Ma anche un'azione biologica di, diciamo, nutrizione della cartilagine. Abbiamo un ascoltatore da Belluno con un nome che è tutto un programma, perché abbiamo Eros all'800240024. Ci sono ancora diversi minuti di tempo per chiacchierare col dottor Melegati. Eros, ci dica. Buongiorno, sono Eros da Forno di Zoldo in provincia di Belluno. Sì. Allora, intanto vorrei ringraziarvi per avermi chiamato, e a nome di mia moglie che vi ascolta tutti i giorni e per la quale siete diventati come una Bibbia. Grazie a voi. Che responsabilità, Eros. Ha cambiato stile di vita. Guardi, le dica che ci ridimensioni un po'. 4-5 volte al giorno, la frutta, camminare. Guardi che io adesso la interrogo sul risparmio, però. Senta, Eros, allora, alla moglie di Eros parte subito il libro di cuore e denari. Perché... No, solo di cuore, perché di denari loro neanche parlano. No, no, anche perché lì è molto parsimoniosa, quindi brava, questo problema non si pone. Ottimo. Dei denari è già pronta. Eros, invece veniamo a lei. Ecco, che ci sta particolarmente a cuore? Della calcificazione del tendine di Achille, di tutti e due i tendini di Achille. Perfetto. Io gioco a tennis a livello amatoriale 2 volte alla settimana e ho questo dolore che mi disturba. Beh. Ho fatto 2 cicli di onde d'urto, la prima di 4 sedute e la seconda di 3, ha migliorato un po', però ho sempre stato niente. No, mi scusi, Eros, ho detto perfetto, non perché mi fa piacere che lei abbia la calcificazione al tendine d'Achille, ma perché un po' come dire bingo, poverino, entrambe. Ecco, questo, in questo modo dal ginocchio noi riusciamo a scendere proprio a completare un po' il nostro viaggio. Guarda, caso sul tendine d'Achille, che è uno dei nostri cavalli di battaglia, dottor Melegati. E quindi, intanto le onde d'urto per una tendinopatia calcifica dell'Achilleo sono la terapia di elezione, ma se non ha funzionato, a maggior ragione se 2 cicli non hanno funzionato, bisogna verificare altro. Intanto bisogna vedere se il signor Eros è sovrappeso, se riesce a migliorare la flessibilità e la forza della muscolatura della gamba, e quindi il rinforzo del polpaccio sia concentrico che eccentrico deve assolutamente essere fatto, un trattamento manuale da parte di un terapista, l'attenzione maniacale alle scarpe e al terreno su cui si gioca. Quindi il mio consiglio è, se lui gioca sul terreno sintetico, provi a giocare sulla terra, e se tutto questo non funziona, a questo punto bisogna fare un intervento chirurgico di pulizia del tendine. Quindi attenzione, deve fortificare la muscolatura. Fortificare la muscolatura e renderla forte e flessibile. Massaggi. Massaggi lungo il tendine. Cambiare terreno. Cambiare terreno possibilmente, attento al peso. Sì, Eros, adesso sei già attento perché la moglie segue i consigli. Perfetto. Di cuore denari, quindi questo ci siamo. E per quanto riguarda le scarpe, dottor Melegati, ecco, quali indicazioni ci sono? Brava. Le regole per scegliere la scarpa giusta, perché io, dottore, non sono mai contenta. Non sto mai bene al 100% con nessuna. Sono a caccia della mia scarpa ideale e quindi, per la palestra. Non è così semplice, bisogna provarne di scarpe. Una scarpa deve essere ben strutturata, deve avere il retropiede ben strutturato che possa mantenere una buona stabilità del calcagno, deve essere ammortizzata, deve avere un po' di tacco e deve avere una suola morbida. Il grip è importante. E poi vanno provate le scarpe. Naturalmente ci sono scarpe per pronatori o scarpe neutre. Il mio consiglio è quello di utilizzare in pazienti che hanno una pronazione del piede, piuttosto che utilizzare scarpe per pronatori, utilizzare delle scarpe neutre con una soletta plantare. Dobbiamo chiedere quindi a chi ce le vende, naturalmente, sì, cioè fare una bella chiacchierata nel negozio di articoli sportivi. E chi le vende deve essere preparato. Allora, noi dobbiamo salutarci, quindi ringraziamo il dottor Melegatti per essere stato con noi, per averci accompagnati in questo viaggio nell'altro lato della medaglia dello sport, quando lo sport presenta il conto. Grazie dottore, ci sentiamo presto. Grazie mille. Noi invece ci sentiamo domani, come sempre. Anzi, ci vediamo già oggi pomeriggio. Pietro Lacorti in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi e Marco Lombardo in redazione. A domani. A domani.